che bello poter celebrare questo anniversario, eh? Mentre stavano Michele e Lucia sul palco, dicevo: mio marito, amo un altro po' anche noi. Voglio assolutamente celebrare 25 anni, poi 50, e poi 75, poi 100, sempre con lo stesso uomo, che è il mio fantastico marito. Che bello, però stiamo vicini, l'anno prossimo celebriamo 10 anni, quindi poi prossima tappa sarà 25. Chiesa, come stiamo? Bene? Siamo svegli? Voglio dire a ogni persona che è qui per la prima volta che è il benvenuto, forse ci sono anche ospiti di questa famiglia bellissima, facciamo un applauso a ogni persona che è qui per celebrare anche questo bel matrimonio. Se sei qui è per vedere delle cose che non puoi vedere da nessun'altra parte, non dei fari o un locale, ma per vedere un Dio che forse oggi conosceremo di più. E io voglio prendere veramente questa parola che il pastore ha dato, cioè chi vuole essere cambiato, chi vuole essere plasmato. Io voglio essere plasmata nei prossimi 20 minuti e voglio che tra 20 minuti, guardandomi allo specchio, non sarò più la stessa, perché sarò ingrassata di Cristo. Ci piace? Nessuno di noi vuole ingrassare in questo periodo, vero? Prova costume tremenda, però io voglio ingrassarmi di Cristo. Voglio assolutamente essere trasformata. Voglio leggervi... No, prima di leggervi qualcosa, una domanda per te. Fallo alla persona che hai accanto e chiedigli: quanto Dio conosci? Chiediglielo, quanto Dio conosci? Quanto Dio conosci? Lo conosci così? Lo conosci così? Lo conosci così? Lo conosci da 20 anni? Lo conosci da 40? Lo conosci da 5 minuti? Lo conosci da 2 anni? Lo conosci da non so quanto? Però la mia domanda oggi è: quanto Dio conosciamo? Io conosco un Dio che è sempre nuovo. Io conosco un Dio, e so che anche la maggior parte di noi conoscono un Dio, che oggi l'hai conosciuto e che tra un momento è già una cosa nuova. Sapete perché? Perché il nostro Dio è infinito. La conoscenza che noi abbiamo di Dio è qualcosa di cui non dobbiamo mai accontentarci, perché Dio è sempre nuovo, è sempre nuovo. A un certo punto, mentre ero in questa riflessione, Signore, ma ti conosco, ma quanto conosco di te, quanto ancora posso conoscere di te? Dio mi diceva proprio questo: sei pronta a conoscermi di nuovo? Nel senso proprio nuovo. Sei pronta a conoscermi in una maniera diversa? Sei pronta a conoscermi in una maniera che non hai mai visto di me, che non hai mai sentito? E chiesa, io in questo momento particolare della mia vita, anche per questa nuova fase fantastica della Chiesa, questa nuova stagione, io voglio conoscere di più Dio. Io voglio conoscerlo meglio, voglio conoscerlo in profondità, voglio conoscere una parte di Dio che non ho ancora visto. Eravamo ad un ritiro 2 settimane fa e in un momento io ho pregato: Signore, ti prego perché io possa ricevere da te una nuova conoscenza di te, una parte che ancora non ho gustato, una parte che ancora non ho mangiato. Voglio vedere i miracoli in mezzo a noi, voglio vedere che possiamo vedere morti risorgere nel tuo nome, voglio vedere miracoli, voglio vedere potenti operazioni, voglio vedere guarigioni. Chi è con me in questa preghiera? Oh, io voglio, che bello, siamo tanti. Allora, oggi vogliamo conoscere un altro po' di Dio, e non perché io sono qui e quindi lo conosco già e ve lo sto ministrando. No, io vi voglio dire che sono con voi a conoscere questo Dio. Mi sto inoltrando in un libro della Bibbia bellissimo, che è il libro degli Ebrei. Io amo il libro degli Ebrei. È un libro del Nuovo Testamento meraviglioso, che ha veramente uno scopo: rimarcare, sottolineare, metterlo in grande chi è Gesù. Questo è un libro che è scritto da qualcuno ha detto Paolo, qualcuno ha detto Luca, ha un autore incerto, però se sappiamo una certissima funzione, uno scopo certo della scrittura di questo libro, è che era dedicato a dei destinatari speciali, cioè a degli ebrei, a coloro che facevano parte fino a quel momento, che erano nati nella religione giudaica e che si sono convertiti a Gesù. Cioè facevano parte di una religione fatta di enormi tradizioni, ma a un certo punto hanno conosciuto un Gesù e sono diventati cristiani. Lo scopo di questo libro è dire a questi giudei diventati cristiani: belli, buongiorno, attentissimi! Perché le abitudini di cui vi siete rivestiti da quando siete nati non ricadano di nuovo su di voi, affinché non facciate in modo che la vostra conoscenza di Dio sia filtrata dalla legge che avete conosciuto fino ad ora. Ebrei ha lo scopo di dire, di sottolineare la sovranità del nuovo patto in Cristo Gesù rispetto al vecchio patto. Ebrei ha lo scopo di ricordarci, Chiesa, che Gesù è sovrano su tutti. E tutti i capitoli, dall'inizio, da 1 a 13, hanno sempre questo titoletto, no? Che sono quei paragrafetti aggiunti, sovranità di Gesù rispetto a Mosè, sovranità di Gesù rispetto a Melchisedec, sovranità di Gesù rispetto a tutti i patriarchi. Vi ricordate il capitolo della fede dove è scritto? Ebrei 11. Eppure lì c'è un elenco di eroi, di supereroi, visto che questo è il verbo della la parola della settimana, di supereroi della fede, eppure anche rispetto ad Abramo, a tutto l'elenco straordinario, c'è Gesù. Sembra che un buon riassunto del libro di Ebrei sia in Ebrei 3:1 e dice: perciò, fratelli santi, considerate Gesù. Considerate Gesù, considerate Gesù. Oggi abbiamo cantato questo, abbiamo proclamato già questo. Che significa considerare Gesù? Significa guardarlo bene, significa osservarlo, significa studiarlo, significa sperimentarlo, significa prestare attenzione. Cioè, quando noi conosciamo qualcuno, tu chi ha conosciuto una persona nuova stamattina? C'è qualcuno che ha conosciuto un'altra persona? Pastore, tu te lo ricordi come si chiamava? No, già non ti ricordi, ok. Mi dispiace per chi ha conosciuto il pastore stamattina, non sentirti rigettato, che ha un problema con i nomi il nostro pastore, ok. Però quando noi conosciamo qualcuno, molto spesso ci dimentichiamo anche il nome. O ci ricordiamo la faccia. Poi forse diventiamo amici su Facebook e allora andiamo a vedere le foto della sua famiglia. Però quando consideri qualcuno, quando lo conosci veramente, quando ci stai, quando lo sperimenti, allora puoi dire: io conosco Carmela, lo so che è di Terlizzi, lo so che ha una bellissima famiglia, che ha due figli meravigliosi, un maschio e una femmina, so anche che gli piace adorare Gesù, che è la sua vita adorare Gesù, che ha un incontro di preghiera, un gruppo di preghiera, i suoi capigruppo sono Nino e Angela, giusto? E si sta espandendo e fa di tutto per portare persone nuove a Cristo. Perché lo so? Perché l'ho considerata, l'ho conosciuta, ci passo tempo con lei, so quello che ha nel cuore, so quello che ha nella testa. Quando Ebrei ci dice considera Gesù, è per questo. E cioè che dobbiamo sapere che sta pensando Gesù. Che sta vivendo nel cuore di Gesù? Qual è il suo cuore? Qual è il suo carattere? Oggi vedremo un piccolo verso per comprendere meglio il cuore di Gesù. Siete ancora con me? Volete considerare Gesù con me? Chi se ne vuole andare? Nessuna mano alzata, a me. Bellissimo, bellissimo. In Ebrei 2:9 dice questo, possiamo leggerlo anche sullo schermo. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Signore Gesù, questo verso è un verso meraviglioso della tua parola. Io ti prego di trasformarci secondo questo tuo verso, che possiamo comprenderlo in te. Spirito Santo, parla al nostro cuore, plasmaci secondo la tua presenza. In Cristo Gesù. Amen. Sara, ma che brutta versione di Bibbia hai usato? Com'è? Gustasse la morte per tutti. Ma che versione è? È una versione sbagliata? È una versione parlata? I miei leader lo sanno che non si usa la versione parlata per predicare, vero Gianni? Yes. Gustasse la morte. Ma che verso è questo? Ma che parola è questo? Ve la voglio spiegare con un esempio che mio marito mi raccontava. Si usava, molti libri del Medioevo, ma anche un libro della Bibbia, il libro di Neemia ce lo racconta, che quando c'era il re, quando c'era una corte, praticamente si usava che ci fosse qualcuno, il coppiere in genere era, che assaggiasse il cibo prima che fosse servito alla famiglia del re e al re stesso. Per quale motivo lo sappiamo? Per evitare che il cibo fosse avvelenato e che potesse uccidere il re. Ora, il coppiere, Neemia, per esempio, beveva quel cibo, cioè mangiava quel cibo, beveva quel vino, lo mangiava. E sapete, Chiesa, il verbo gustare non ha a che fare con un piccolo assaggio, non ha a che fare con un piccolo sorso. Il verbo gustare significa proprio mangiare, cioè prenderlo e mangiare. E la Bibbia dice che Gesù gustò la morte. A quanti di noi dà fastidio questo verbo? Io non posso immaginare nella mia carne, qui, no? Mi si ferma qualcosa nello stomaco, che Gesù gustò la croce per noi. È strano, è brutto. Gustare è gustare, no? È mangiare piacevolmente. Gesù gustò la morte per noi. È scritto in questo verbo che fu fatto di poco inferiore agli angeli. Che significa, Chiesa? Che Gesù era meno potente degli angeli? Mai dovremmo pensare a una cosa del genere. Gesù era meno potente di Mosè? Mai potremmo pensare a una cosa del genere. La Bibbia usa questa parte per dirci che Gesù, figlio di Dio, Dio stesso, per un po' di tempo, 30 anni, è stato fatto uomo. Ed essendo sulla terra, ha assunto tutta la parte umana. Cioè Gesù mangiava, Gesù dormiva, Gesù andava in bagno. Cioè non è scritto, ma immagino di sì, cioè per forza. Gesù aveva bisogno di relazioni, stava con delle persone. Gesù aveva bisogno di calma. Tutta la parte umana, che non te l'aspetti da un Dio, lui l'ha rivestita completamente. Perché Gesù è venuto sulla terra come uomo e come Dio. Per quello la Bibbia dice è stato fatto di poco inferiore agli angeli. Non perché Gesù sia meno potente, ma perché in quel momento, rivestendosi i panni da uomo, è sceso dalla sua sovranità, rimanendo sovrano, sulla terra, ma fatto di carne e ossa. Che strano questo Dio. Sapete perché in Ebrei è scritto questo? Per essere tutt'uno con noi, per simpatizzare con i nostri peccati pur non essendo colpito, per simpatizzare con le nostre debolezze. Cioè, che cosa ci sta dicendo? Che Gesù ti capisce. Cioè, di lui è scritto che lui è stato tentato in ogni cosa come noi, ma non peccando. Quindi quello che tu vivi, le tue paure, le tue tristezze, le tue situazioni, i tuoi conflitti, le tue situazioni complicate, Gesù le può comprendere in pieno, perché non è un Dio distante, ma è un Dio alla tua portata. Gesù è alla tua portata. Gesù è venuto sulla terra per portarti, per capirti, per comprenderti, per creare un'intimità con te. Io amo questa parte del nostro Dio, sapete perché? Perché da piccola mi hanno insegnato che potevo avere relazione con Dio solo con delle preghiere a memoria. E io non capivo come mai Dio potesse rapportarsi così con me. E non ho trovato mai Dio così. Ma l'ho trovato nel momento in cui qualcuno mi ha detto: guarda che Gesù è alla tua portata, è a tua disposizione, Gesù ti capisce, Gesù è morto per te. E io pensavo stessi ancora su un legno, e invece ho capito che Gesù è morto per me, risorgendo, vincendo per me. Per questo il sacrificio di Gesù non è una teoria, Chiesa, ma è pratica. Ti piace? Sì o no? Oh, una chiesa a cui piace, questo dovrebbe dirlo diversamente. Ti piace, sì o no? Sì! E cavolo che ci piace da morire, non noi, ma lui è morto. E ci piace un sacco. La Bibbia dice che Gesù ha gustato la morte, l'ha mangiata. Gesù non è entrato nella morte in punta di piedi. Gesù non ha fatto un assaggino della morte. Gesù è morto ed è morto sulla croce, scegliendo una delle morti, forse la morte più brutale che esista al mondo. Gesù non ha detto: per piacere, Dio, papà, io vengo sulla terra, sto con questi quattro scalmanati 30 anni, però almeno nel momento della croce, per piacere, dammi un corpo da Dio, così non riesco, così non soffro. Così, io penso certe volte che Gesù avrebbe potuto farlo, ma non l'ha fatto, perché Gesù ha scelto di entrare nella morte con tutto se stesso. Ha gustato la morte. Sai perché? la mangiata e il suo piacere eri tu. Sai quando mangi qualcosa di buono che ti resta un retrogusto in bocca? Ora posso fare tanti esempi, no? Se vai a casa di Rosalia ti lascia un retrogusto fantastico. Se vai al Delight, faccio pubblicità al Delight, dato tutta la nazione ci sta vedendo, quindi se vai al Delight, che è un franchising che si aprirà in tutto il mondo, se vai al Delight e mangi lo yogurt, il gelato allo yogurt o il cornetto, che è la specialità di Saverio e Stefania, ti rimane un gusto in bocca che si chiama Saverio e Stefania. Quando Gesù ha mangiato la morte, ha gustato la morte, gli è rimasto in bocca un sapore di Clarissa, di Vito, di Nico, di Letizia, di Ludovico, tuo. Puoi mettere il tuo nome. Gesù ha mangiato la morte e aveva il tuo gusto. Gesù l'ha mangiata per te, per me, per darci una vita che nessun altro può darci. Ti piace questo? Io amo questo. E sai perché la Bibbia usa questo verso, questa parola gustare? Vi ricordate un po' quello che succedeva nell'Antico Testamento quando c'era da fare l'espiazione dei peccati? Ve lo ricordate? Sì, che ve lo ricordate. Che cosa facevano? Il popolo di Israele che cosa faceva? Portava degli animali al sacerdote che venivano cosa? Venivano bruciati. Venivano bruciati, sgozzati, lavati, venivano bruciati e si dava il meglio, si davano animali, si dava frutti, si davano verdure, si dava qualcosa da mangiare. Era come se Dio, nella sua bellissima giustizia, dovesse mangiare qualcosa e mangiasse il sacrificio, l'animale, quello che veniva offerto. Lo voglio spiegare diversamente. Sara, che significa la giustizia di Dio? Sto ancora cercando di capirla. Quello che ho capito, per quello ti dico quello che ho capito io, è che il nostro Dio è tre volte santo. Non è santo solo una volta. È santo, santo, santo. Eccezionalmente santo, sovranamente santo, splendidamente santo. Come può questo Dio sovranamente santo rapportarsi a me, peccatrice, sporca, piena di schifo? Non può, non ha potuto per tutto l'Antico Testamento e aveva bisogno di riparare ogni peccato. Come veniva riparato? Veniva riparato con un animale, veniva riparato con un sacrificio, veniva dato qualcosa in cambio che espiasse il peccato, che lo liberasse, che lo pagasse, ok? È come se Dio, nella sua santità, ogni volta che c'era un peccato, avesse fame di santità. E quella fame doveva essere ripagata, doveva mangiare. Cosa mangiava? Sacrifici. Che cosa ha mangiato con Gesù? La croce. Suo figlio. Sara, Dio ha mangiato Gesù? Sì. È proprio così. Il nostro Dio sovrano, nella sua giustizia, nella sua santità, ha dovuto mangiare un sacrificio e ha scelto il miglior sacrificio, quello che potesse pagare per tutti quanti noi, l'unico suo figlio Gesù. Quindi non più animali, non più cose terrene, ma un figlio dato soprannaturale per noi. Sai cosa vuol dire questo per me e te? Che non dobbiamo sacrificare più niente. Non abbiamo sacrifici da poter offrire a Dio. Io non ho niente per espiare il mio peccato. Una cosa che Dio stesso mi ha dato è una, il sangue di Gesù. E quindi questo vuol dire che quando Dio mi guarda, io devo dirgli: Gesù, vieni, Gesù, vieni, ricoprimi della tua santità, del tuo sacrificio, perché ho sbagliato e ho bisogno di perdono. Ogni volta, ogni giorno, 27 miliardi di volte al giorno, noi siamo ricoperti dal sangue di Gesù. Per questo abbiamo un accesso verso Dio. Ti piace? Tu hai un ingresso gratuito alla presenza di Dio e non perché i biglietti te li hanno dati per farti votare, ok? O perché sono gratis. No, no, qualcuno li ha pagati. Immagina un po' allo spettacolo di te con Dio, Gesù ha comprato tutti i biglietti e te li ha dati. E per te sono gratis. Ti piace? Tu hai un accesso gratuito. Diglielo alla persona vicino a te, è gratis. È gratis, è gratis. Non hai bisogno di pagare più, perché è gratis, sta pagato. Stai pagato, stai comprato e stai pagato. Perché? Perché sai cos'è anche la cosa bella? Il sacrificio di Gesù non si consuma con il fumo come era con gli animali. Per quello c'era perennemente bisogno di sacrificare. Il sacrificio di Gesù è pagato una volta ed è per sempre. Questo vuol dire che il nostro Dio Santo si è saziato per sempre, per sempre. Per questo tu non hai bisogno di continuare a pagare. Per questo tu non hai bisogno di offrire delle cose. Quello che devi offrire è la tua preghiera pura attraverso il sangue di Gesù. Il tuo cuore, la parola dice pulito dal sangue di Gesù, asperso con il sangue di Gesù. Perché? Perché questo è l'unico sacrificio che ci è richiesto. Per cui se sei qui oggi e stai ancora pagando tu per dei peccati che hai commesso, o se pensi che la tua famiglia stia ancora pagando per i peccati che tu hai commesso, io ti invito oggi a pulire, a presentare a Dio il sangue di Gesù sulla tua vita. E questo lo puoi fare solo se lo prendi tu. Prendilo. Come faccio a prenderlo, Sara? Prega. Diglielo, Signore Gesù, io ho bisogno del tuo sangue sulla mia vita. Perdona i miei peccati, perdona quello che ho fatto fino ad ora, non voglio più pagare, ti prego non fare più pagare a nessuno, e Dio lo ascolta perché? Perché l'ha già fatto, e l'ha fatto morendo sulla croce, risorgendo sui peccati, togliendo ogni potenza nelle mani di Satana sulla nostra vita. Ti piace? Questo vuol dire che la battaglia che c'è contro di te è una battaglia che ha un tempo, che è stata già vinta e che è stata vinta per sempre. E tu quando sei in battaglia puoi dire, oh, aspetta, è difficile, però ho già vinto, perché il sangue di Gesù è su di me, perché il sangue di Gesù ha già pagato, perché il sangue di Gesù mi ha coperto, perché il sangue di Gesù mi ha purificato. Ti piace? Ti piace o no? Oh, brava, così si dice, sì, io sono contenta che Dio ha mangiato per sempre, per me. E questo chiesa può rimanere un bellissimo studio biblico, dottrinale, teorico, però voglio darti due chiavi per renderlo pratico. Siete ancora con me? Altri 10 minuti, io avevo promesso a Leonardo di non muovermi, ma non ce l'ho fatta. Ok, Leonardo, perdonami, ma siccome sei un supereroe, Leonardo, puoi fare tutto. Avete visto la pubblicità che va in giro su Facebook di Leonardo con la maglia da supereroe? Bellissimo, abbiamo dei ragazzi meravigliosi, eh? Abbiamo degli upside down straordinari, sono abbastanza di parte, però sono straordinari questi upside down. Due risvolti pratici, come facciamo, Sara, a vivere tutto questo ogni giorno? Semplice, vivi ogni giorno nella grazia. Voglio leggerti il verso 1 del capitolo 2, comincia così: perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite per timore di essere trascinati lontano da esse. Perciò bisogna che ci atteniamo ancora di più, che le capiamo ancora di più, che ce le teniamo strette, che ci teniamo stretti a queste cose per non essere trascinati lontano. Questo dice Dio. Cioè, Sara, perché com'è, fa così Dio, no? Sara, fai una cosa, stai in queste cose, non ti allontanare, perché se ti allontani da queste, ti allontani da me. Ti allontani. E quando stai lontano, non so se, spero che non, sto facendo impazzire Leonardo. Quando sei lontano, guardatemi, sono al buio. Non mi si vede. Quando sei lontano, può succedere qualsiasi cosa. Te ne puoi andare da qualsiasi parte. Allora viene qualcuno e dice, sai, ho sentito che Dio è così, che Dio è un Dio sbagliato, che ti manda delle maledizioni se sbagli. E io, oh, sì, è vero, può essere. Sai, ho sentito che se ti... Perché devi essere diverso? Non c'è bisogno di essere diverso a scuola. Non c'è bisogno di essere diverso nel tuo lavoro. Perché? Perché non fa niente. Perché non fa niente essere diverso? È troppo difficile, è diverso. E io che sono lontana dico, sì, è vero, non c'è bisogno di essere diversa. Perché sto lontana. Quando sei lontana... Ti possono dire tutto e ci credi. quando sei vicino, cominci a sudare, perché la bellezza della presenza di Dio ti ricopre così tanto che tu lo sai che cosa è illuminato. Non hai più dubbi, qui non si vede niente, qui non si capisce, non ti vedi nemmeno tu senza luce, ma quando sei al centro della volontà di Dio, qui sì che ti vedi, qui sì che vedi quello che succede, qui sì che vedi veramente come Dio pensa. Per quello la Bibbia dice: ehi, bisogna che ti applichi di più. Sara, ma io questo messaggio già l'ho sentito da 20 anni e non ti ho detto all'inizio che oggi possiamo conoscere Dio di più di 20 anni? Se la Bibbia dice applicatevi di più, questo vuol dire che c'è sempre un di più, c'è sempre un di più. Sara, ma io lo so, Gesù mi ha salvato 25 anni fa. Ok, ma allora c'è qualcosa di più che Dio vuole dirti. Stai, non ti allontanare, perché bisogna che ci applichiamo di più a queste cose. O forse sei qui e dici: Sara, ma io queste cose le ho sentite da quando sono nata nella mia chiesa. Bene, oggi tuffati, tuffati, stai dentro, applicati di più, perché quando lo vivi di più, allora lo capisci giornalmente. Ti assicuro che quando vivi nella grazia, vivi nella grazia. Ultimamente ero al telefono con uno degli Upside Down e lui mi diceva: ma quante volte devo perdonare? Quante volte? Quante volte devi perdonare? Lo sai che c'è stato un discepolo cretino che ha fatto la stessa domanda a Gesù? E Gesù lo ha smontato dicendogli 70 volte 7, come dire: ma sei scemo? Ma com'è? Non hai capito niente? Allora, quando ci allontaniamo da qui, cominciamo a vedere che abbiamo perdonato una volta e basta. Se me lo fa di nuovo, però, io credo che nella sapienza di Dio, invece quello che dobbiamo comprendere di più è che c'è grazia di più. E vivi una difficoltà, ma com'è Sara? Ma com'è? Io vengo qui, servo fedelmente, poi Dio mi fa capitare queste cose. Ehi, c'è qualcosa che ancora devi capire di Dio. E poi c'è tuo marito, e poi c'è tua moglie, e poi ti svegli e dici: mo, 25 anni. Sì, altri 25, per grazia. Com'è possibile? Quando si è sposati si capisce perché ci si divorzia. Perché se lo fai tu, lo fai tu. E c'è ogni giorno, anche più volte al giorno, un buon motivo per decidere di separarsi. Ho un bellissimo matrimonio, non sto parlando di me, ok? Qualche volta capita anche a noi che facciamo lite, ok? Però quando si è in tre, allora conosci Dio di più, conosci tuo marito di più, conosci tua moglie di più. Lucia, sei pronta ad avere altri 25? Michele? Michele, tu con Lucia? Ok, mi piace. Perché siete diventati in tre. Questo ricordavo ieri. Questa famiglia è stata consacrata la prima volta, loro due, ma ora sono in tre. Non è incinta di nuovo Lucia, ma c'è una corda tra di loro. Hanno vissuto un cambiamento, un rinnovamento, ora veramente Dio è in loro e si vede nella famiglia e quanto ancora vedremo. Perché? Perché di più, e la Bibbia dice bisogna che ci applichiamo di più. Stai attento, non ti far trascinare da tutto quello che ti viene detto in giro, da ogni link su Facebook, da tutte le cose che ci riempiono la testa. No. Rimani in quello, vivi nella grazia giornalmente. Ti piace? Ultima cosa, in Ebrei 2,8 è scritto: avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte. Ehi, stai vivendo un combattimento? Satana sta sferrando verso di te dei colpi brutali? Stai fermo, vivi nella grazia, vivi nel sacrificio che Gesù ha fatto per te. Sai perché? Perché c'è scritto: al momento non lo vediamo ancora, ma Dio gli ha sottoposto tutto. Tutto. Gesù non ha niente fuori controllo. Te lo dico di nuovo, perché quando lo dico a me, lo devo dire ogni giorno allo specchio: Sara, Gesù non ha niente fuori controllo. Non c'è niente che gli sfugga. Non c'è niente che gli sfugga. Stai vivendo delle cose grosse? Ehi, a Gesù non sfugge niente. Stai vivendo una malattia? Stai vivendo una difficoltà? Ehi, a Gesù non sfugge niente, perché a Lui tutto gli è sottoposto. Tutto gli è sottoposto. Non c'è niente che ha più potere di Lui. Ci rendiamo conto in quale potenza viviamo noi? In un Dio, in un Gesù che ha la potenza di sottomettergli tutto. A Lui tutto è sottoposto. Ti piace? Ora facciamo un esercizio al volo. Stai pensando a qualcosa. Stai pensando, perché lo vedo dalle vostre facce. Stai pensando a quella cosa che secondo te è proprio fuori il controllo di Gesù, che è troppo complicata e che è fuori controllo tuo. Posso vedere le mani di chi sta pensando a questa cosa? Ok. Ti voglio chiedere di ripeterlo con te. Cioè di ripeterlo in te, ma ripetilo ad alta voce. Ripeti la parola. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetta. Diglielo, dillo. Dillo a te stessa. Dillo alla situazione. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Dio ha il controllo di tutto quello che stiamo vivendo. Dio ha il controllo sulla storia della tua famiglia. Dio ha il controllo sul tuo corpo. Dio ha il controllo sulla tua storia. Dio ha il controllo su tutto. Niente gli sfugge. I tuoi sentimenti, i tuoi pensieri, non gli sfuggono. Sai perché? Lui ha già vinto. Lui ha già vinto. Lui ha già vinto e tu con Lui. Amen? Voglio concludere come ho cominciato. Considera Cristo. Considera Cristo. Ogni giorno, nelle sfide, nei combattimenti, nelle frustrazioni, nelle delusioni, nei pensieri, nelle emozioni. Quante volte le nostre emozioni sono proprio loro che ci portano da tutte le parti. Considera Cristo, mettilo al centro, metti al centro il fatto che Lui ha gustato la morte per tutti, Lui ha gustato la vittoria per ognuno di noi ed è in quella vittoria che noi vogliamo rimanere. Considera Cristo. Amen? Vogliamo alzarci in piedi e pregare che questa sia una parola che rimane in noi e che porta cambiamento. Oggi devi tornare a casa a pranzare, cucinare, lavare, non so quello che devi fare, incontrare famiglia, stare, domani mattina devi andare a lavorare, stare con tua moglie, con i tuoi figli, e io ti chiedo di avere un motto in testa: considera Cristo. Dillo a te stesso, dillo nella tua famiglia, praticalo nella tua famiglia, bisogna che non ci allontaniamo da questo. Consideriamo Cristo, considera Cristo, nelle tue difficoltà, nelle tue dipendenze, nelle tue frustrazioni, considera Cristo, nella tua famiglia, considera Cristo, nel tuo posto di lavoro, considera Cristo, allo specchio, considera Cristo, con tuo marito, con tua moglie, sento forte questo. Abbiamo celebrato un matrimonio, forse oggi stiamo riparando matrimoni per celebrare altri 25 anni nel tuo matrimonio. Considera Cristo, considera Cristo. Considera Cristo, consideralo. Amen. Voglio chiederti di mettere un braccio sulla persona che è vicino. Facciamo famiglia, avviciniamoci, combattiamo insieme, siamo una squadra, siamo una famiglia, sei a casa tua qui. Preghiamo, preghiamo ad alta voce, prega tu per te stesso e per le persone che hai vicino. Preghiamo di considerare Cristo nelle nostre cose. Alza la tua voce, prega.